Lucca 1052. La città di Lucca era sacra per natura, uno di quei santi luoghi di potere sulla terra a cui era stata riconosciuta una speciale aura sin dagli albori della storia umana. C'erano resti di insediamenti paleolitici, eppure la città doveva la sua prima stabilità agli antichi Etruschi e ai Celti Liguri. Era opinione comune che le origini del suo nome fossero da ricercare in una parola celtica, lux, che significava zona di paludi. Nel III secolo avanti Cristo, i Romani avevano già riconosciuto Lucca come una località particolare. Ma per i primi cristiani erano stati il primo e il secondo secolo a formare il cuore e l'anima della città, che consideravano sacra sopra tutte le altre. Mentre i Romani avevano continuato a costruire in modo superlativo, circondando Lucca di importanti strade, racchiudendola nella sua prima cinta di mura e realizzando uno spettacolare anfiteatro, era stato l'insediamento clandestino dei cristiani a formare la struttura portante della cultura che sarebbe rimasta nei cuori dei lucchesi. Mentre il cattolicesimo tradizionale fioriva in superficie, Lucca aveva un'altra comunità cristiana nelle fondamenta che viveva in armonia con i convertiti cattolici più tradizionali, perché veniva insegnato che i figli degli apostoli originali e i loro seguaci si erano stabiliti lì, dove secondo la leggenda erano stati raggiunti dai membri della Sacra Famiglia. Questi cristiani sostenevano che i loro insegnamenti arrivavano direttamente da Gesù attraverso l'eredità dei suoi figli ed erano in possesso di un libro sacro con cui istruivano i loro discendenti. All'epoca dell'arrivo di Matilde a Lucca, il potere dell'ortodossia nella Chiesa attraverso il monachesimo ascetico stava crescendo, tanto che chi percorreva le antiche vie del cristianesimo doveva essere molto discreto. Di sicuro le nuove riforme erano assai preoccupanti per coloro che erano devote e devoti alla via dell'amore. Le notizie sull'eresia cominciavano a circolare sempre di più in Italia e si erano già diffuse in altre aree dell'Europa. I conterranei di Isabella erano come molti cittadini di Lucca che pubblicamente frequentavano e sostenevano la Chiesa cattolica, ma conservavano le loro tradizioni segrete dietro le porte chiuse delle loro abitazioni. Isabella, come discendente della famiglia di Sigfrido da Lucca, era stata educata secondo i più segreti insegnamenti delle antiche tradizioni. Faceva parte dell'Ordine del Santo Sepolcro, la società segreta fondata il giorno della prima Pasqua da Luca, l'Evangelista, insieme a Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea. L'ordine aveva ramificazioni a Gerusalemme, in Calabria, a Roma e in tutta la Toscana. Era un ordine che non soltanto ammetteva le donne fra i suoi membri, ma le riconosceva anche come guide. Questo avveniva in onore di Maria Maddalena, che l'ordine doveva proteggere, e di sua figlia, la profetessa Sara Tamar. Secondo la tradizione del Santo Sepolcro, erano loro le legittime eredi di Gesù, le sante donne grazie alle quali il cristianesimo era riuscito a sopravvivere e aveva prosperato in Europa. Il nome con cui i figli di Lucca avevano deciso di farsi chiamare, ossia Lucchesi, era uno astuto gioco di parole. Lui li definiva come abitanti di Lucca, ma anche come i figli di Luca l'Evangelista, il fondatore che aveva portato in Italia il Sacro Ordine del Santo Sepolcro. Il corteo, che accompagnava Matilde, entrò dalla porta di San Frediano a nord e la bambina fu lieta di vedere che stavano per essere accolti con grandi festeggiamenti. Indossava un abito di finissimo broccato d'oro ed era seduta con il padre sul suo enorme destriero nero. Bonifacio era ugualmente agghindato. La sua mantella da cavallerizzo era bordata di ermellino e tempestata di gemme. Aveva spesse e solide polsiere d'oro che scintillavano al sole della Toscana. La gente di Lucca era uscita in massa per riuscire a scorgere la leggendaria contessina con le trecce lucenti agli straordinari occhi azzurro-verde. Isabella le aveva legato i capelli e le aveva infilato qualche fiore nelle trecce quella mattina. Il suo rifiuto di coprire la testa della bambina con un velo aveva provocato una certa costernazione in Bonifacio, il quale pensava che fosse indecoroso che sua figlia venisse vista in pubblico in quel modo, ma Isabella sapeva come trattare con il padre di Matilde. La contessina di Canossa avrebbe avuto bisogno del sostegno del popolo in Toscana quando fosse diventata grande. Ormai era l'unica erede di una vasta fortuna, una fortuna che, stando alla legge, non poteva essere ereditata da una donna. Per poter continuare a rivendicare il ruolo di erede di Bonifacio, Matilde avrebbe avuto bisogno, fra le tante benedizioni, di essere amata dal popolo della Toscana. Isabella lo aveva spiegato pazientemente a Bonifacio. L'entrata di Matilde a Lucca doveva essere memorabile. Doveva diventare la bambina prediletta dei toscani, se voleva avere qualche speranza di ereditare quando fosse diventata più grande. Ma Isabella era anche consapevole del fatto che Matilde stava diventando sempre più una leggenda vivente a dispetto della giovane età. Gli indottrinati di Lucca erano molto preparati sulle enigmatiche profezie lasciate da Sara Tamar e sapevano che Matilde poteva essere l'attesa fin dal propizio giorno in cui era nata. Se davvero era così, doveva essere venerata come la nuova pastora, la donna che li avrebbe guidati spiritualmente negli insegnamenti e nella conservazione della via dell'amore. Matilde era arrivata in un momento in cui l'antico popolo di Lucca aveva bisogno proprio del simbolo di speranza che lei rappresentava. Tutti questi fattori dovevano essere considerati quando Matilde avrebbe fatto il suo trionfale ritorno nella città natale. Bonifacio aveva dovuto cedere e l'astuta Isabella aveva preparato la profetizzata principessa per il suo debutto davanti al popolo. Matilde, dal canto suo, si stava comportando splendidamente, rideva e salutava con la mano. Sembrava proprio la piccola, mitica creatura che molti credevano fosse. Ha già fatto i sogni, Isabella? L'enigmatico uomo saggio, conosciuto ai suoi discepoli solo come il maestro, era accanto alla contessina esausta che dormiva. Era stata una giornata intensa, piena di sfilate, banchetti, in cui aveva ammaliato suo padre ed era stata adorata dalla sua gente. L'incontro ufficiale di Matilde con il maestro sarebbe avvenuto l'indomani, quando fosse stata più riposata. Ma il saggio voleva darle una prima occhiata e parlare con la sua tutrice per prepararsi. La sua era una presenza imponente. Era un uomo alto e attempato, dall'aspetto apparentemente spaventoso per via della lunga cicatrice dai bordi frastagliati che gli attraversava il lato sinistro della faccia. Sì, ma non capisce che cosa siano o che cosa significhino. E ha sognato il Golgota? Non proprio, ma ha sognato il Venerdì Santo, di questo sono certa. Il maestro annuì, pensieroso. Era soddisfatto, era abbastanza per vedere realizzata la profezia, persino a quello stadio iniziale, perché la profetessa aveva dichiarato che l'attesa avrebbe avuto visioni del giorno nero del teschio, mentre queste erano state interpretate nello specifico come visioni della crocifissione. Per una bambina così piccola e di natali così promettenti, sognare il Venerdì Santo, e in particolare i bambini, era un forte presagio. Credo sia ciò che dicono, decretò il maestro. Portala da me non appena avrà rotto il digiuno. C'è molto lavoro da fare. E Isabella? Sì, maestro. Sei stata brava con lei. La bambina fa onore al tuo amore. Isabella sorrise all'adorato maestro, gli occhi colmi di lacrime. Lucca 1052. La cicatrice era veramente orribile, non poteva fare a meno di guardarla. Vieni, piccola, togliamoci subito il pensiero, voglio che mi posi la mano sulla faccia e tocchi la cicatrice, vedrai che è solo carne vecchia, niente di cui avere paura. Coraggio. Matilde lanciò un'occhiata a Isabella, che annuì con un sorriso. Lasciò che il maestro le prendesse la manina e se la portasse sul volto sfigurato. La bambina passò l'indice e il medio lungo il borgo frastagliato. Ora la curiosità aveva preso il posto della paura, prese il coraggio a due mani e chiese: Come vi siete fatto questa cicatrice, maestro? Isabella tirò un sospiro di sollievo. Matilde non aveva dimenticato le buone maniere. Ah, una bella domanda che richiede una storia. Vieni a sederti accanto al fuoco e te la racconterò. Come promesso, Isabella e Matilde si erano recate di buon'ora al gruppo di edifici di pietra conosciuto semplicemente come l'Ordine. Qui il maestro viveva e lavorava, istruendo allievi provenienti dalle più antiche famiglie del luogo, secondo gli insegnamenti della via. La camera in cui si trovavano era una delle sale di studio, ammobiliata con un lungo tavolo su cui erano posati calamaio, pergamena e una grossa scatola di legno che conteneva rotoli di insegnamenti. C'era un enorme focolare di pietra, pensato proprio per mattine come quella in cui la primavera toscana era acerba e portava con sé ancora un po' di freddo. Il maestro parlava spesso delle sue ossa vecchie e di come sentisse quel freddo penetrarvi a fondo. Matilde e Isabella si sedettero sulla panca accanto al focolare. Il maestro prese posto su uno sgabello di legno di fronte a loro e cominciò la sua spiegazione. Tanto tempo fa, bambina, uno dei primissimi capi del nostro ordine venne ferito in una grande guerra. Fu una battaglia epica fra le forze della luce e quella delle tenebre, anche se per un lungo tempo si temette che avesse perso questa battaglia. In realtà non andò così. Egli vinse, ma rimase deturpato da quella dura prova, con una cicatrice dai bordi frastagliati che egli attraversava tutto il volto. Con una cicatrice del genere era facile identificarlo. Nei secoli successivi, quelli di noi che seguirono le sue orme si procurarono la stessa cicatrice in suo onore, per dimostrare che erano dediti solo agli insegnamenti tramandati dall'ordine. Infliggersela fa parte del nostro giuramento. Mi rendo conto che è difficile capire perché un uomo debba procurarsi da solo una cicatrice simile, ma è segno della nostra devozione a quello che è dentro e non a quello che è fuori. Matilde si portò le mani sul viso di porcellana, provocando nel maestro una fragorosa risata. Non temere, piccolina, a te non verrà mai chiesto di fare niente del genere. So che la tua bellezza sarà una delle tue più grandi armi come guerriera della via, ma ricordati sempre chi ti ha donata, perché la usassi in modo saggio. Matilde annuì con aria solenne, prima di chiedere con un filo di voce: è stato doloroso? Il maestro scrollò le spalle. Sinceramente non me lo ricordo. È successo molto tempo fa. So solo che, se è stato doloroso, di sicuro non ho sofferto quanto ha sofferto Gesù durante il suo ultimo sacrificio. E ora, se abbiamo sviscerato a sufficienza l'argomento della mia faccia, mi piacerebbe cominciare la tua istruzione. Lo trovate accettabile, mia signora? Matilde annuì di nuovo e poi aggiunse: sì, maestro. Lui rise, apprezzando il desiderio della bambina di rispettare le buone maniere. Bene, allora, comincerò dandoti un fiore molto speciale, per una signorina molto speciale, è una rosa a 6 petali. Il maestro aprì la scatola di legno che era appoggiata sul tavolo e tirò fuori un rotolo di pergamena. Questo era legato con un nastro di seta scarlatta con sopra dei diamanti ricamati con il filo dorato. Gli occhi di Matilde si illuminarono per la bellezza di quel regalo. Aprilo e conserva il nastro. Le strizzò l'occhio e all'improvviso il suo volto sfigurato assunse un'espressione benevola piuttosto che spaventosa. Isabella aveva ragione, come sempre. Era importante non giudicare un uomo soltanto dalle apparenze. Un giorno Matilde lo avrebbe ricordato come il volto più bello che avesse mai visto. Matilde srotolò la pergamena e vide che c'era il disegno stilizzato di un fiore. 6 grandi petali tondi intorno a un cerchio centrale. Questa rosa a 6 petali è il simbolo del libro dell'amore, Matilde, e con essa imparerai i segreti. Si rivolse a Isabella: lo conosce, non è vero? Conosce la nostra versione in toscano e quella tradizionale in tedesco e latino, e le sto insegnando il francese, così lo saprà in 4 lingue, maestro. E come se la cava a leggere e scrivere? Apprende in fretta queste cose, un'allieva notevole in effetti. Credo che leggerà e scriverà in tutte queste lingue con grande abilità, se il padre deciderà che potrà continuare i suoi studi. E non ho motivi per credere il contrario. Dobbiamo fare in modo che lui capisca l'importanza della sua istruzione, disse il maestro con enfasi, prima di tornare a parlare con Matilde. Adesso dobbiamo metterci a lavorare sul serio. Lascia che ti mostri come questa preghiera si riferisce ai petali della rosa. E l'uomo, conosciuto come il maestro, cominciò a istruire Matilde sui più sacri insegnamenti del libro dell'amore, la buona novella lasciata a tutta l'umanità dal principe della pace. Matilde trascorse la seconda parte del pomeriggio a visitare i numerosi luoghi sacri di Lucca e accompagnò il padre fino alla grande chiesa di San Frediano. La loro guida era un giovane prete colto e gentile di nome Anselmo, nativo di Lucca e profondo conoscitore della storia della sua città. Suo zio, detto anche Anselmo da Baggio, era il vescovo di Lucca e un uomo assai potente nei territori di Bonifacio. Senza dubbio quel giovane nipote era destinato a ricoprire una posizione di grande importanza, dato che discendeva da una famiglia così influente. Gli appartenenti a quella famiglia erano tutti membri accorti e discreti dell'Ordine del Santo Sepolcro, che avevano imparato a integrarsi sapientemente nelle tradizionali strutture di potere cattoliche. Il giovane Anselmo spiegò che la chiesa che stavano per visitare prendeva il nome da un vescovo del VI secolo che aveva costruito lì il primo edificio con le sue stesse mani. Lo chiamiamo Frediano in toscano, ma nel suo paese era chiamato Finian, veniva da una terra chiamata Irlanda. Sai dov'è, Matilde? Matilde rispose di no con la testa, mentre ascoltava estasiata. Il nome Irlanda la faceva pensare a uno dei posti magici delle storie di Isabella. È un'antica isola verde e nebbiosa che si trova al di là delle terre dei Normanni e dei Sassoni, una terra ricca di mistero, di cultura e di una profonda spiritualità. Di lì Finian partì come pellegrino alla volta dell'Italia, poiché aveva saputo delle origini sacre di Lucca da un sant'uomo di nome Patrizio, che desiderava vivere in un luogo in cui gli insegnamenti di Gesù fossero puri. Matilde si sforzò di restare composta durante la solenne visita del battistero con il suo grande fonte battesimale di pietra, ma in realtà il suo entusiasmo per San Frediano si spense in fretta una volta che il mistero iniziale della leggenda straniera svanì. La sua vera trepidazione era per la chiesa che avrebbero visitato subito dopo, perché San Martino era il luogo in cui era custodito il volto santo, la sacra effigie di Gesù scolpita da Nicodemo. Anselmo raccontò a Matilde e a Bonifacio la storia leggendaria dell'arrivo di quell'immagine a Lucca, mentre camminavano lungo le strette vie dirette a San Martino. Dopo aver lasciato la Terra Santa e aver trascorso molti mesi in mare, il prezioso ritratto giunse infine sulle coste della Toscana. Qui, con la massima cura, fu trasferito sulla terraferma e quindi posto in un carro trainato da due buoi bianchi come la neve. I buoi erano selvaggi e furono lasciati liberi di seguire i loro istinti. I custodi del volto santo credevano che la mano stessa di Gesù avrebbe guidato il carro, conducendolo nel luogo in cui avrebbe dovuto essere conservato. Diversi miracoli si verificarono lungo il tragitto percorso dall'immagine. I buoi avanzarono per 3 giorni e 3 notti senza mai fermarsi, finché non arrivarono qui, nel centro di Lucca. Crediamo che il volto santo abbia scelto di venire a Lucca perché stava seguendo il percorso compiuto dal libro dell'amore. Anselmo continuò sorridendo in uno scherzoso tono cospiratorio. Gli iniziati, i membri del nostro ordine, sanno che il volto santo voleva stare vicino ai veri insegnamenti, e questi si trovavano solo all'interno della congregazione che celebrava qui a San Martino. Erano arrivati alla facciata della chiesa di San Martino, che era dedicata a Martino di Tours, sin da quando era stata costruita, sempre dal vescovo irlandese Finian nel VI secolo. Quello che rimaneva di essa era davvero scarso e cadente. A Matilde non sembrava per nulla adatto come santuario per la primissima opera d'arte cristiana scolpita da un uomo che aveva guardato in faccia Gesù dopo averlo tolto dalla croce. Tirò la manica a suo padre. Papà, sì, tesoro mio, noi siamo ricchissimi, vero? Non possiamo dare alla gente di Lucca un po' di denaro per costruire una chiesa bella e grande per il volto santo? Bonifacio scoppiò a ridere e prese in braccio la figlia. Sì, siamo ricchissimi e vorrei che lo rimanessimo, evitando di regalare le nostre ricchezze soprattutto alla chiesa. Matilde, per nulla soddisfatta della risposta, si divincolò dalle braccia del padre e si precipitò verso la porta principale. L'interno di San Martino era angusto e buio e Matilde dovette strizzare più volte gli occhi prima di abituarsi alla luce fioca delle candele. Senza aspettare i due adulti, corse verso l'altare principale e si fermò solo quando fu abbastanza vicina per toccare l'immagine più sacra di tutta la cristianità. Restò immobile davanti a essa, paralizzata. Era a grandezza naturale ed era stata elegantemente scolpita da un artista di straordinaria abilità. Nicodemo aveva lavorato il legno di cedro del Libano per formare le morbide pieghe di una tunica che dalle braccia tese copriva il Cristo in croce fino ai piedi. I particolari del viso, i capelli e la barba erano stati dipinti con cura per riprodurre il colore reale. Gesù era di carnagione scura e molto bello. Onde di capelli neri gli ricadevano sulle spalle insieme a una lunga barba leggermente biforcuta, Aveva dita lunghe e sottili, ma furono gli occhi a catturare la sua attenzione, grandi e neri, con uno sguardo che esprimeva gentilezza e compassione, persino in quegli ultimi momenti di sofferenza. Matilde non aveva mai visto niente di più bello dell'uomo che si trovava sulla croce davanti a lei. Guardò dentro i suoi grandi occhi e fu certa che lui avesse ricambiato il suo sguardo. Matilde restò senza fiato, il sacro volto le parlava. Si sforzò di ascoltare ancora, ma non udì altro. Si voltò e vide che suo padre e Anselmo erano a pochi passi da lei. Anselmo sussurrava qualcosa a Bonifacio, di sicuro qualche spiegazione aggiuntiva sull'opera d'arte e la sua storia. Matilde non riusciva a sentirli. L'unica cosa di cui era consapevole era che la statua di Gesù le aveva parlato. Era contento di lei. Non sapeva bene quale sua azione avesse compiaciuto Gesù, ma adesso era quanto mai intenzionata a fare qualcosa. Pensando in fretta, si ricordò dei ninoli d'oro che Isabella le aveva intrecciato fra i capelli quella mattina. Erano due gioielli finemente lavorati che le erano stati donati dalla casa di Lorena quando era nata. Erano estremamente preziosi. In modo furtivo, per far sì che il padre non se ne accorgesse, cominciò a districarli dai boccoli ramati. Quando furono entrambi tra le sue mani, sorrise alla statua e mormorò: «Un giorno costruirò una chiesa per il tuo volto santo, lo prometto». Si inchinò e si allontanò, camminando all'indietro per non voltare le spalle a Gesù. Quando raggiunse suo padre e Anselmo, che l'aspettavano, sorrise loro con dolcezza. «È bellissimo», disse semplicemente. Non era pronta a condividere l'esperienza che aveva vissuto in quel luogo, non ancora. E quando lo fosse stata, lo avrebbe fatto prima di tutti con Isabella. La sua tutrice avrebbe di certo saputo perché Gesù era contento di lei. Bonifacio uscì dalla chiesa a grandi passi. Ne aveva abbastanza di religione per quel giorno ed era impaziente di andare a incontrare gli uomini che erano responsabili della sicurezza di quella zona della Toscana. Subito dopo, come ricompensa per i suoi soldati più fedeli, aveva organizzato una grande battuta di caccia, evento che attendeva con trepidazione. Matilde camminava adagio dietro di lui, sperando di riuscire a rimanere sola con il giovane prete Anselmo. Aveva la faccia simpatica e il sorriso dolce. L'era piaciuto subito, grazie a quell'immediato istinto naturale proprio dei bambini intelligenti. Quando il padre fu abbastanza lontano, posò la manina sul suo palmo. «Che cos'è, principessina?» chiese in tono affabile Anselmo, guardando il tesoro che gli aveva messo in mano. «È la mia promessa al volto santo», mormorò Matilde. «Un giorno gli costruirò una grande chiesa. Prendi quest'oro e conservalo fino a quando potrò portarne di più». Anselmo la scrutò. Era davvero una bambina fuori dal comune. «Matilde di Canossa, sei una grande e generosa benefattrice. Grazie alla vostra generosità spero di poter guidare un giorno la costruzione di una chiesa più grande». Matilde gli sorrise, soddisfatta di avere un degno complice per il suo grandioso piano. «Bene, allora la faremo insieme, quando sarò più grande e potrò donare il mio denaro come mi pare e piace». E dopo essersi inchinata un'ultima volta davanti all'altare, la contessina uscì di corsa nella luce del sole pomeridiano, ordinando al padre di portarla subito da Isabella. Il feroce Bonifacio, un uomo il cui solo nome faceva tremare di paura i guerrieri più valorosi, si fermò sui suoi passi prima di scoppiare a ridere fragorosamente, mentre si voltava verso l'unica creatura al mondo dalla quale accettava ordini.